Ultima puntata del 2012 per visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari. Gli ospiti di questa puntata, in cui parleremo dei 5 film preferiti per quanto riguarda gli usciti in sala nel 2012 con una serie di amici e colleghi, e poi le prossime uscite in sala, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia. E poi vi trovate la settimana sul piccolo schermo, sempre per quanto riguarda i film, e il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana, e in fondo alla pagina anche il link che rimanda a tutte le trasmissioni del 2012. Diamo inizio ai giochi e ai collegamenti per le cinquine del 2012. Bene, allora ci siamo e abbiamo in collegamento con noi l'amico Nicola Falcinella. Ben ritrovato dopo un po' di tempo, Nicola. Bentrovati a voi e naturalmente auguri a tutti per queste feste, visto che siamo in clima festivo. Eh sì, ci siamo. Allora, Nicola, per i più giovani, per chi non conosce la tua voce, diciamo, allora facciamo una breve scheda sul tuo lavoro, dove eserciti il tuo lavoro, insomma. Ma brevemente, io faccio il critico cinematografico ormai da parecchi anni, anche se non sono vecchissimo, e ho lavorato per tantissime testate e basta, poi lavoro per qualche festival qua e là come freelance. Tra l'altro hai avuto un incarico prestigioso ultimamente, se non sbaglio, vero? Sì, da quest'anno farò parte della commissione di selezione dei film della settimana della critica alla Mostra di Venezia. Bene. Sono stato nominato poche settimane fa dal Sindacato Critici Nazionale e con Francesco Di Pace e gli altri spero che faremo un bel lavoro. Bene. Cioè, ce la metteremo tutta. Intanto ti faccio i complimenti, insomma, per questo riconoscimento. Senti, Nicola, allora brevemente anche un bilancio di quello che è stato quest'anno. Sì, quest'anno secondo me non ci sono stati dei grandissimi film. Infatti pensavo un po', per fare la cinquina l'anno scorso, 2011, secondo me era stata una grande annata, dal Faust di Sakurov a The Tree of Life di Malik, e c'erano stati veramente dei film memorabili. Quest'anno non ci sono stati diversi buoni film, infatti ridurli a 5 è stato un po' difficile, però secondo me non c'è stato il filmone da mettere veramente tutti d'accordo. Okay. E alcuni dei film più belli che ho visto nel 2012 nei festival non sono ancora usciti, e spero che usciranno presto, da Holy Motors di Leo Scalax a Tabù di Miguel Gomez. Tra l'altro quello di Carà è stato agli Oscar europei, ha avuto un riconoscimento, se non sbaglio. Sì, infatti, e all'estero è uscito quasi ovunque, dovrebbe uscire nel 2013 anche in Italia, speriamo che esca con un numero di copie significativo, insomma, che non si limiti soltanto a Roma, Milano e le città capozona. È un film che a me è piaciuto molto, è un film sul cinema, però è uno di quei film anche sul sogno, sulla magia, sulle vite possibili, pieno zeppo di invenzioni, di citazioni, e quindi sì, quello sarebbe il mio film dell'anno. se parlassimo di film, certo, di film. Certo. Senti, invece passiamo allora alla cinquina di quelli che sono usciti effettivamente in sala, nelle nostre sale in quest'anno solare. Sì, allora nella cinquina, dopo sì, c'erano vari film che insomma abbastanza sullo stesso livello, e alla fine ci ho messo Hugo Cabret di Scorsese. Sì. Che anche questo è è un grande omaggio al cinema, a Méliès, alla fantasia, al cinema che non c'è più, fatto in un modo che è vicino al cinema che ci sarà. Quindi Scorsese ha messo insieme il passato, e se non il futuro, o comunque il presente più avanzato, chiamiamolo così. Sì, poi io me con insomma, la sapienza artigianale degli esordi, insomma. Sì. Mm. E anche quando il cinema aveva ancora tutta la sua componente di magia. Sì. E poi ho messo C'era una volta in Anatolia di Nuri Bilge Ceylan, molto bello, un turco che aveva vinto il Grand Prix della giuria a Cannes nel 2011, è uscito quest'anno a giugno, non molte copie, non è stato molto visto, però a parte che io ho un debole per questo regista turco, però è un noir molto molto forte e molto riuscito, secondo me, che indaga più, cioè dura poco più di una notte, una mattina praticamente. Sono un poliziotto, un medico, un procuratore che portano l'assassino a cercare il luogo dove ha nascosto il cadavere, ma più che l'indagine sull'assassino, è un'indagine su coloro che indagano, in fondo. Sì. E visivamente molto molto bello. Sì, sono d'accordo. Poi, da un estremo all'altro, Skyfall di Sam Mendes. Anche questo agli Oscar europei, insomma, ha fatto la sua parte. Sì, è un film che ha messo abbastanza d'accordo tutti, mi sembra che abbastanza unanime il giudizio che è forse il James Bond più bello e sì, cioè è un film di intrattenimento di quelli di cui vorremmo vedere spesso. Comunque è un film di intrattenimento, ma con tante cose, con molti stimoli, e quindi Skyfall. Bene. E il quarto film è Hunger di Steve McQueen, è un film che non è recentissimo, però è uscito in Italia soltanto quest'anno, è il regista di Shame, infatti il film è uscito un po' sull'onda di quel successo. Di Shame. Su questo ti dico subito, io vabbè, ho pensato che li avrei rivelati alla fine, ma su questo siamo d'accordo, su Hunger ci troviamo, insomma, sì. E sì, il protagonista è sempre Michael Fassbender, è la storia di Bobby Sands, l'attivista dell'IRA che fece uno sciopero della fame è lunghissimo, se non mi ricordo più che anno fosse, se era l'80, l'82. L'81. Credo l'81, sì. Sì, adesso la memoria non mi sfugge, ed è più ancora di Shane, che comunque è un bel film. Hunger è un lavoro sul corpo ancora portato agli estremi, e anche sugli spazi, perché alla fine si svolge praticamente tutto dentro la cella. Pensa, Nicola. Sì, dai, continua. E quindi la coppiata McQueen Fassbender. Sì. E poi il quinto film invece è un film cinese di Hong Kong, e Simple Life di Anh Hoi. È una sorta di melodramma neorealista di una delle registe cinesi più interessanti, anche se non molto conosciuta. È una storia di affetto, di dedizione, che lega un produttore cinematografico all'anziana domestica che ha seguito per anni la sua famiglia, e nel momento del bisogno della donna il produttore troverà il tempo per starle vicine. È un film molto delicato, molto sensibile e anche molto molto commovente. Mm-hmm. Allora ti, ti dico rispetto per esempio ad Anger, su cui siamo d'accordo, io penso che io ero andato con un po' di prevenzione perché Shame a me non era piaciuto affatto, e invece Anger al contrario l'ho trovato molto bello, tra i migliori, tra i 5 film secondo me dell'anno, con quel dialogo di 20 minuti con il prete Bobby Sands, che è da storia del cinema a mio avviso, e sì, poi un'idea di cinema fisico molto forte, ancora più che in Shame secondo me. E pensa che poi invece a Simple Life quattro film io li avevo certi. Per il quinto film Simple Life era un po' in lizza con altri, tipo Monsieur Lazare, Amour di Haneke e La guerra è dichiarata di Valérie Donzelli. Poi non ti, alla fine ha vinto quest'ultimo nei miei canoni, però insomma Simple Life l'avevo preso seriamente in considerazione. E anch'io bene o male avevo questi stessi film tra cui scegliere. Poi avevo messo anche nella prima scrematura, avevo messo anche J. Edgar di... E io quello invece l'ho messo fisso tra i cinque, quello a me è piaciuto molto, del vecchio sì, Clint. Mi sa che ho messo un film di Eastwood tutti gli anni, negli anni scorsi, un po' cambiare. E, sì, anche perché sì, J. Edgar mi è piaciuto, però forse rispetto ad altri Eastwood recenti mi ha fatto meno impazzire. Mm-hmm. E poi sì, Monsieur Lazare, la guerra dichiarata, Amour, anche Killer Joe, mm-hmm, che comunque è un gran bel divertissement. E poi che era piaciuto anche pure alle prugne della Satrapi, però alla fine ho preferito questi. Bene, bene. Questi cinque. Un bel quadro, e Nicola, sì. Avrei messo anche degli italiani in questi cinque, perché secondo me quest'anno è stata una bella annata per l'Italia, almeno a livello di punte. Poi non so se sia stata una grande... No, sicuramente l'Italia ha vinto parecchi premi quest'anno, Da reality a Cannes, a Cesare deve morire, sì, a Berlino, sì. E non so se ci sono stati tanti film italiani da vedere, però ci sono stati secondo me diversi film belli come punte, dal film di Gianni Amelio, che è Il primo uomo, che secondo me è stato un po' sottovalutato, a due film che io metto a pari merito dentro, cioè come italiano, che invece sono reality di Matteo Garrone, Io e te di Bernardo Bertolucci. Due film molto diversi tra di loro, anche imperfetti, perché forse il film di Garrone nella parte centrale ha qualche lunghezza, ripetizione di troppo, però ha un inizio folgorante, un finale magnifico. E poi ritrae un mondo che abbiamo spesso sotto gli occhi e in un modo un po' diverso e molto più anche profondo di come è stato letto. E poi è pienissimo di cinema, poi Garrone secondo me gira meravigliosamente. E invece Io e te di Bertolucci è un piccolo film da camera, però contiene un mondo e ha dei momenti anche qui molto, molto emozionanti, e innanzitutto un grande ritorno di Bertolucci, perché erano 9 anni che non faceva un film, mm-hmm, e se ne sentiva la mancanza. E poi vabbè, ha trovato due attori giovani e che per le parti erano indovinatissimi. C'è la canzone di David Bowie che canta in italiano, che è perfetta per il film, e poi anche un finale di speranza. E quindi alla fine quasi tutti questi film qui Bene. Un po' di speranza. Bene, ma... Nicola, allora io ti ringrazio. Questa era la nota che deve, sì. Io ti abbraccio, auguri per il nuovo anno, ci vedremo spero presto in sala. Auguri anche a voi, a risentirci presto. Ciao Nicola. Buona giornata. Ciao. Questa era Nicola Falcinella con la sua prima cinquina, proseguiamo. Fabio Ferzetti, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Come va? Insomma, abbiamo già ricominciato. Allora, prendono le visioni. La firma di riferimento del quotidiano Il Messaggero è ultimamente anche autore di un documentario su Carlo Verdone presentato al Festival del Film di Roma. Giusto Fabio? Eh sì, non posso negarlo, con Gianfranco Giagni. Allora, eravamo in due. Noi ci sentiamo praticamente ogni anno per questo gioco delle cinquine rispetto ai film preferiti tra quelli usciti in sala, nelle nostre sale, nelle sale italiane. Abbiamo già sentito Nicola Falcinella, tu sei il secondo, vai liberamente. Vado liberamente. Allora, in ordine di uscita, perché così me li sono trovati, non in ordine di merito, diciamo che sono... Non sono cinque exequo, ma insomma non svelerò i miei, ma sì, posso anche dirlo, i miei preferiti in assoluto sono poi i primi due a essere usciti, cioè Hunger di Steve McQueen, arrivato in ritardo da noi solo grazie al successo di Shame, insomma, film imprescindibile, per usare un'espressione abusata. Siamo a 3 su 3 per Hunger. Ah, sì. L'altro è C'era una volta in Anatolia, altro film meraviglioso che ho amato, e c'è anche questo, ci ha messo un anno e mezzo a uscire, ma insomma grazie al cielo è arrivato. Di Nuri Bilge Ceylan, pare che la C si pronunci G in turco. Gli altri film non possono non essere Amour di Michael Haneke, sì. E devo dire, dopo lunghi ripensamenti, Monsieur Lazare, sì. Il film canadese che così ha sorpreso un po' tutti a fine estate, e Oltre le colline di Munju, che insomma resta un grande film anche così, non abbastanza apprezzato, non abbastanza forse difeso e come meritava, è stato passato come la proverbiale meteora nelle sale, ma insomma era un grande film. Sì. Da guardare con attenzione. E ne restano fuori tanti. Ne restano fuori tanti. Cinque sono pochi. Io volevo mettere, ma lo segnalo come così, una medaglia a parte del film più sottovalutato dell'anno, che è Moonrise Kingdom, che è in sala in questi giorni, di Wes Anderson. Delizioso, delizioso. Che ha il torto di essere una commedia, di essere colorato, di essere pieno di speranza, di ironia, di divertimento, ma è un film che comunica vibrazioni di piacere ininterrotte dall'inizio alla fine. È vero, forse è non vero. È pochissimo, è insomma, no? Sì. Non succede così spesso. Mm-mm. Mi dispiace non poter segnalare i due più bei film italiani dell'anno, che fra i primi 10 c'entravano, che sono L'Intervallo, di Di Costanzo, e Cesare deve morire, dei italiani, sono sicuramente i migliori film italiani quest'anno. E poi un premio a parte io vorrei darlo al più bel documentario che in sala è passato, anche se beato chi l'ha visto, che era Project Nim, il documentario sullo scimpanzé educato a forza a diventare un semi-uomo negli anni 70, storia vera. L'avevamo visto al Festival di Roma dello scorso anno. A Roma l'anno scorso, sì, nel 2011, uscito credo quelle cose un giorno solo in tutte le sale di non so più quale circuito, uscito in DVD con Feltrinelli, proiettato al Teatro Valle meritoriamente, insomma. Sì. Con una grande introduzione di Mario Sesti, che avremo ospite la settimana prossima. Io non c'ero quella sera, l'ho persa. Ma insomma, così consegnato alla casa animalista, è molto più che un film animalista. È molto altro, anche se naturalmente quella è la sua... Grandissimo film, un premio Oscar che non si riesce neanche a far uscire in sala. Ma certo. Su Hunger, ti dicevo Fabio, su Hunger siamo a 3 su 3, Nicola, io e te. Mentre sul quinto film, io avevo 4, li avevo sicuri. Il quinto film, come dicevo prima a Nicola, era dibattuto tra Monsieur Lazare, Amour, A Simple Life e La Guerra è Dichiarata. E poi ho scelto alla fine La Guerra è Dichiarata. Sono tutti nella mia lista, una long list che li comprende tutti. Ma devo dire anche Pietà di Kim Ki-duk, che alla fine non mi sono sentito inserire, ma insomma, chissà, se l'avessi visto più di recente magari, poi, insomma. avrebbe lasciato più segni. Non è stata una cattiva annata, tutto sommato. Sono d'accordo, sono d'accordo. Senti Fabio, ecco, un bilancio dell'anno cinematografico, a tuo avviso? Il bilancio purtroppo torna a essere molto negativo, soprattutto per il cinema italiano. Ci siamo illusi per un anno, abbiamo recuperato il rapporto col pubblico, ci sono grandi commedie che incassano, insomma era un fuocherello di paglia, perché è stato appunto, ci sono stati uno o due anni di grandi incassi, ma non hanno gettato le basi per niente. Il Natale di questi giorni è disastroso e comunque resta il problema che nessuno va, cioè io quello che tocco con mano tutti i giorni, non so, ieri sera ero da amici, dico Damsels in Distress, pensavo fosse un gioco di parole, che fosse impazzito, appunto Project, cioè anche come dire il pubblico informato, gli appassionati, le persone attente, non riesce proprio a mantenersi al corrente, cioè c'è un gap informativo micidiale, insomma nell'era di internet bisognerà pure chiedersi perché. Sì, a parte c'è anche parte della responsabilità secondo me è sul rispetto al surplus delle uscite, insomma c'è veramente un... Tutto si accavalla, escono troppi film confusamente e poi appunto è veramente la legge della giungla, ormai tanto vince chi si fa più pubblicità in televisione, punto, il resto sono chiacchiere, non tutti vogliono vedere ciò di cui hanno già sentito parlare o visto delle immagini, è l'unica cosa che aggancia l'attenzione, il potere appunto della critica in tutte le sue forme, radio, televisione, giornali, siti, è veramente irrisorio, proprio quantità negligiabile, come si dice, siamo ridotti a questo, siamo così, l'omeopatia dell'informazione ormai, c'è proprio un problema di disordine, perché poi c'è invece un'immensa fetta di pubblico affamata, che vorrebbe sapere che cosa vedere. Ma tu prima poi... Prima poi citavi un documentario, rispetto ecco, al documentario c'è secondo me un grosso risorgimento per quanto riguarda la produzione e a volte anche timidamente le uscite in sala, però insomma c'è una grossa... Con meno illusioni di qualche anno fa, avevamo tutti creduto e sperato, si è scoperto che insomma... Però c'è una grossa vitalità nel settore documentario. Ma sai, poi voglio dire, siamo lo spettatore anche appunto attento, esigente, è sommerso di un'offerta televisiva di, credo, io la guardo poco o niente la televisione, ma insomma non sento parlare che delle grandi serie televisive, per cui quelle vengono viste direttamente, nessuno le scarica, nessuno evidentemente di la pirateria non arriva. Oppure vengono scaricate e viste in blocco durante intere nottate, da sì, quello che però, mi dicono. È una frangia irrilevante, il dato su cui riflettere, io continuo a dirlo, non so più con chi ne parlavo, non so chi mi dice, guarda rifletti su questo, in Italia, cioè in Europa, poniamo in Francia, in Germania, nei grandi paesi europei, Skyfall, che è un bellissimo 007, un 007 di qui, particolarmente bello, ha incassato intorno ai tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma se non ne ha fatti 12, ora saremo più in crisi, saremo un paese che ha più problemi economici, forse siamo anche un paese con molta più pirateria, punto, fine. Cioè, questa cosa ormai è passata proprio nel senso comune, non c'è la minima remora, nessuno si fa proprio, pensa neanche mezzo secondo che magari un film lo può scaricare legalmente o vedere al cinema, che è anche più bello, proprio questa cosa è finita. Sicuramente la sala è un'esperienza di altro tipo. Lo vediamo anche questi giorni a Natale, insomma, però a me mette un po' malinconia. Bene Fabio, io ti ringrazio, molto puntuale e anche insomma di qualità la scelta che ci hai reso noti. Un abbraccio e ci si vede alle prossime. Soprattutto che siano scelte condivise, insomma, credo che la gioia di chi fa il nostro mestiere è vedere che appunto anche dei film difficili, anche dei film, poi invece hanno successo, trovano il loro pubblico. Sì. Il contrario è così. Un abbraccio Fabio, a presto allora. Anche a voi, a presto. Ciao. E questo era Fabio Ferzetti. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Professor Giovanni Spagnoletti. Buonasera, anzi buongiorno. Buongiorno, come stai? Reduce da queste vacanze. queste feste. Insomma. Queste feste. E ancora ci deve essere il Capodanno. Sì, c'è anche la Befana. C'è anche la Befana, se per... quindi, diciamo che è passata, se ne sono passate due su. Allora Giovanni, tu sei tra i nostri fissi per quanto riguarda questo gioco di fine anno o inizio anno, a volte all'inizio dell'anno, a volte prima del Capodanno, rispetto ai 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2012. Stiamo parlando adesso, proprio adesso, con Fabio Ferzetti della crisi costante della fruizione della sala. Mi ha chiamato un'amica dicendomi, dipende anche comunque dai costi del biglietto, pensando per esempio anche ai film in 3D, i costi non sono così bassi, insomma. No. Mm-mm. Beh, insomma, è un modo per aumentare il prezzo del biglietto. Yes. Cala l'offerta, la qualità dell'offerta. Eh sì. E si cerca di ramazzare quello che è possibile. Eh sì. Vabbè, è una vecchia legge. È una vecchia legge. E soprattutto il cinema d'autore è quello che sta messo peggio. Senti, per quanto riguarda le tue scelte, Giovanni, ci avventuriamo? Avventuriamoci, va. Alcune forse saranno anche condivise da Ferzetti. Sì. Altre no, ma insomma, parliamo del 2012, cioè film usciti in sala nel 2012, esatto. Quindi non visti ai festival. No. Ecco, allora, io comincerei, uno che ho amato moltissimo è Ugo Cabret di Martin Scorsese. E su questo ti trovi con Nicola Falcinella, ad esempio. Vabbè. Poi, un altro film di fantascienza che mi è piaciuto un sacco, e che non so se è andato bene, ho visto che non ha fatto un discreto incassi, ma insomma, In Time. Ecco, questo forse è un titolo che nessun altro ha messo. Sì, io non mi ricordo neanche se l'ho visto, mi sa di no, mi sa che non sono riuscito. Andrew Nichols, piccolo genietto del cinema americano. Sì. Vabbè, insomma, adesso abbiamo esaurito le cose, diciamo così, americane, e passiamo in attesa di tanti bei film che usciranno adesso, la settimana prossima, Bigelow, The Master e compagnia bella. Sì. Allora, Amour, credo su questo molti l'avranno gettonato, spero, almeno Ferzetti. Il Ferzetti te l'ha messo, Amour. Ah, ecco, meno male, anche se diceva che non era un capolavoro. Poi, un altro film che io ho amato moltissimo, di un regista, Alexei Fedorchenko, che è Silent Soul. E poi, vabbè, insomma, per obblighi di questioni italiane bisognerà mettere un film italiano. Insomma, in una cinquina ci vuole un film italiano. Ma insomma, senza nazionalismi, insomma, anche perché, insomma, i film italiani decenti ne sono usciti parecchi quest'anno. Sì. Appunto, quindi insomma si può scegliere tra Bellocchio e Bertolucci, B&B. Bellocchio e Bertolucci. Uno è una bella addormentata, io e me. No, io e te. Sì, io e me. Io e te. Il Capodanno sta ancora dando dei lumi. Ma poi ci sono anche film come Diaz. Ma insomma, parecchi altri film italiani, diciamo così, che non siano le consuete commedie, sì, diciamo così, di cassetta, che forse in un'ottica, diciamo così, della qualità, forse senza pregiudizi, ma insomma. Senti Giovanni, e considerato anche che tu insomma sei addentro al settore documentario, ne vogliamo citare uno almeno, un titolo così? Beh, guarda, di documentari molto, molto notevoli ne sono usciti tanti. Veramente lì c'è l'imbarazzo, lì non bisogna fare una cinquina, ma bisogna fare perlomeno 10, e solamente per i documentari, anche perché il documentario, bene o male, insomma, è un po' un genere a sé, insomma. Sì, non, sì. Però magari per esempio anche l'animazione, no? L'animazione, insomma, certo. Film dell'animazione ne sono usciti, adesso ne stanno per uscire alcuni interessanti. animazione sempre di più, sì, sì, sì, sì. Diciamo che ormai fin da fumetti e fin da animazione sono ormai il pane quotidiano del cinema. Senti, cosa che una volta non avveniva, il che è abbastanza interessante, bisognerebbe cercare di indagare il perché. Certo. Senti, è un documentario su tutti, però lo vogliamo citare? Guarda, un documentario su tutti, francamente non te la senti. Non me la sento perché ne sono usciti veramente ottimi, non sai, lì dipende anche da che genere, se sono documentari che riguardano il nostro paese oppure sono documentari stranieri, insomma no, cioè veramente, è veramente un mare magnum in cui è difficile, mentre il cinema di finzione si fa fatica a vedere buoni film, anche se quest'anno tutto sommato poi scartabellando tra film usciti, quelli visti ai festival, o film che stanno per uscire, che ne so, per esempio... Buongiorno Sarajevo, che esce proprio questi giorni, film di Ken Loach, insomma voglio dire, c'è un sacco di, di film, di film interessanti. Documentari sono veramente tanti. Sono stato molto controcorrente? No, no, devo dire almeno almeno un paio ci siamo. Almeno un paio ci siamo. Gli altri, su Bertolucci, se ti trovi d'accordo con Nicola Falcinella. Senti, quindi due volte con Nicola Falcinella. Due volte con Nicola Falcinella, è una con Ferzetti. Senti, Giovanni, visto che comunque stiamo presentando anche i nostri ospiti, soprattutto per i più giovani, diciamo anche brevemente come e dove eserciti il tuo lavoro, visto che insomma... Il mio lavoro? Esatto. All'Università di Tor Vergata. E poi organizzo il Festival di Pesaro, insomma, queste sono le mie due principali, attualmente le mie due principali attività. E un bilancio per sommi capi dell'annata, sì. Direi che non è, che tutto sommato non è stata un'annata arida. Insomma, ai festival si sono visti dei buoni film. Direi, mi pare meglio dell'anno scorso, ma non è sempre strano fare queste cose perché uno poi la memoria breve per noi anziani è un problema, allora capisci, uno non si ricorda molte cose, però insomma ho la piacevole sensazione di un'annata che a guardare i titoli mi sembra in risalita rispetto a altri. Certo, il problema è che il cinema in questo momento interessa poco, ma che ne so, anche i blockbuster non sono più, non sono quei blockbuster esplosivi di una volta, non lo so. I film di Natale, anche quelli, non hanno più quegli incassi che avevano qualche anno fa. Quell'impatto, sì. Quell'impatto, ma anche quell'impatto mediatico, mi pare, sì, no? Insomma, sì, non so, sì, è vero. Io insomma non sono un giornalista, però insomma, ho la sensazione che ci sia un po' un ritirarsi e anche dalla competizione a Natale, no? Sì, sì, sì, sì. Però a Natale però escono, che è uscito il film di Ken Loach, esce il film di Le Conte, questo film d'animazione di Le Conte. Sì, sì, sì. Insomma, voglio dire, anche cose di qualità. Anche per chi non vuole, va al cinema una volta sola o due volte l'anno per ridere e per rilassarsi, che cosa nobilissima. Certo. C'è anche qualche film interessante per chi ama il cinema, diciamo così, non solo quello commerciale. Ad esempio io avevo perso l'anteprima stampa e questi giorni sono andato in sala a vedermi Moonrise Kingdom, che ha citato prima Moonrise Fabio Kingdom Ferzetti. È uno dei film uno di quelli che uscirà come scusami, invece The Master sta per uscire. The Master sono rimasto strabiliato, l'ho visto, c'è stata l'anteprima stampa qualche giorno fa, veramente. E finora qual è il film più gettonato? Finora Anger e Amour, mi pare, sì, sì, sì, sì. E anche C'era una volta in Anatolia, è stato menzionato due volte. Sì. Sì, quello è un po' Antonioni in Turchia, ma insomma, sono un po' perplesso. Però... Sei un po' perplesso. Invece l'altro, qual è l'altro film che mi hai detto? Allora, Anger, Amour e C'era una volta in Anatolia. Anger, sì. Anger, sì, un film, insomma. E Hugo Cabret. Vedi, allora almeno uno Sì, sì, sì, almeno sì. Non sono proprio sempre così isolato. Bene, Giovanni, come sempre. Grazie. È un piacere. Ciao Federico, auguri di buon Capodanno e per un anno cinematografico stupendo per tutti. Bene, bene, io ti abbraccio e ci vediamo presto. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Giovanni Spagnoletti. Vi ricordo allora, per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Abbiamo altri ospiti. Non si è strozzato, per cui lo abbiamo tra noi. Maurizio Di Rienzo, eccoci sì. Qui. Come ogni anno è un piacere di nuovo che si rinnova. Grazie. A volte ti abbiamo all'inizio dell'anno, a volte a fine anno. Quest'oggi è toccato il 27, quindi siamo ancora nel giorno di paga. Esatto. Il giorno di paga. Per chi ha uno stipendio, io non ce l'ho, quindi. Allora Maurizio, per chi non ci conosce, per chi anche per i più giovani, presentiamoci. Sì. Come eserciti il tuo lavoro? Tu esercito. Io esercito un sacco di cose. No, sono giornalista. Yes. Sicuramente. Critico cinematografico per natura e per professione. Lavoro per molti festival, seleziono quindi film, scelgo film, sono coinvolto anche nel campo del documentario e del cortometraggio, sono tutti italiani. Faccio parte di una serie di situazioni, la P5, la P6, la P7, vabbè, lasciamo perdere, e quindi vabbè, insomma, comunque robette del genere, diciamo che sto a 361 gradi e il cinema italiano sta alla frutta. Va bene, andiamo avanti. Allora Maurizio, intanto ti faccio un po' un breve quadro della situazione. Abbiamo avuto Nicola Falcinella, Fabio Ferzetti e il professor Giovanni Spagnoletti. Cioè fanno anche rima. Esatto. Falcinella. E tra un po' tocca a Merghetti. Vabbè, ho capito. Dunque, allora, andiamo avanti. Ubi minor maior cessat. Cioè no, volevo dire il contrario. Allora, no, scherzi a parte. Dimmi. Ogni anno noi siamo invasi però da notizie. Ormai da 5-6 anni il web regna e quindi nulla è misterioso più d'oltreoceano e non solo d'oltreoceano. Per cui sappiamo perfettamente che ci sono film come Django, Unchained, quello di Tarantino, come The Master, che è stato un grande film d'apertura anche a Venezia, come Lincoln e come altri, diciamo così, che sono usciti in America, di cui si parlerà tra breve a far Golden Globe e Oscar, e che non fanno parte di quest'anno, ma in realtà già è come se l'avessimo visti. Allora, escludiamo questi qui. Ok. Quindi, una cinquina straniera. Vabbè. Io dico per due motivi complementari, ma dovrei sceglierne uno solo: o Skyfall o Il Cavaliere Oscuro. Mm-hmm. Perché sono due lati di una stessa uno stesso medaglione, insomma, doblone che sia. Credo che preferisco a questo punto Il Cavaliere Oscuro, che ha una complessità, grazie alla regia di Christopher Nolan, molto intensa, e anche degli stereotipi che funzionano. Skyfall penso che sia divertente, azzardoso, finalmente c'è qualcuno che muore, lo sanno tutti, Judi Dench non c'è più, però le radici sembrano affondare proprio in una serie di robe alla Spider-Man e Cavaliere Oscuro. In ogni caso Skyfall supera la sufficienza e direi che un posto per questi due lo si trova, poi fate Vobis. Okay. Dopodiché, Hugo Cabret, sì, no, alla fine ho detto sì, perché non c'è, insomma, moltissimo tanto altro che mi abbia veramente entusiasmato. Però penso che il film di Ang Lee, che metto come sesto, perché è appena uscito e direi che comunque Vita di Pi, penso che abbia un bel posto d'onore, perché lui è un gran cineasta, una persona che riesce davvero a raccontare la vita attraverso piccole storie come Banchetto di nozze, oppure grandi fantasmagorie culturalmente basate come La Tigre e il Dragone, oppure invece anche queste altre cose che sono pur sempre avventure. Quindi Vita di P lo metterei nel gruppo. E infine, purtroppo, io non amo i francesi, ma diciamo la verità, Amour, che è un film francese a suo modo, perché Michael Haneke, che è un cittadino europeo, diciamo germano-europeo, austriaco-germano-europeo, quindi Amour, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, Amour, assolutamente Amour, perché no? E un altro film francese, di una persona che ha portato a Roma l'altro film, che è un po' deludente, invece questo è La Guerra Déclarée di Valérie Donzelli. Io credo che sia stato un esempio notevole, forse irripetibile, dato il fatto che la donna era coinvolta insieme appunto al marito, che fa anche l'attore appunto del film, questa vicenda, questa rielaborazione di vicenda personale, un equilibrio straordinario di in qualche modo di fluidità di vita, dove la morte incombe, la tragedia pure, ma l'energia non è soltanto paradossale, c'è una gran fetta di rispetto, di amore e anche di irriverenza. Insomma, un film cristiano senza essere cattolico mi interessa molto. Ne hai citati sei, devo dire. Alla fine ne hai citati sei comunque. Ne ho citato sei, perciò ho detto, ma scegliete voi, o il Cavaliere o 007, uno dei due. Ok. Per esempio, Skyfall ti trova d'accordo con Falcinella. Ugo Cabré l'hanno scelto in più persone, sì, tra cui Giovanni, sì, e Nicola. Sì. E Amour, idem, sia Giovanni che Fabio Ferzetti. No. E La guerra dichiarata ti trova d'accordo con me, invece, vedi? Ah, bien, ça va, moi, je suis content de ça. No, ma Hugo Cabré, perché in realtà ci sono delle cose che non mi convincono. Però, diciamo la verità, la costruzione mostruosa di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, certi virtuosismi tecnici, diciamo artistici, anche di uno Scorsese che arriva a 70 anni ormai. Sì. E che in ogni caso va alle radici del cinema e parla di un grande personaggio semi-misconosciuto come Méliès, lo romanzeggia, per carità, tutto è concesso. Però ci fa capire quanto quest'uomo, cioè Martin Scorsese, abbia in pugno il senso del cinema, ce l'abbia da sempre, dal suo inizio, non solo da Mean Streets, anche dai primi cortometraggi. E quindi è un omaggio a un grandissimo cineasta che ama il cinema, lo ama restaurato, spende dei soldi per restaurarlo, ha adorato il meglio del cinema italiano, ha fatto da timone per tanti documentari, ha una voce inconfondibile, io lo vedrei bene come attore. Senti Maurizio, chiedo anche a te a questo punto, sì, il bilancio di quest'anno cinematografico, complesso, insomma. Il complesso è un complesso complicatissimo, perché in Italia siamo andati abbastanza giù come incassi, in tutti i sensi. Le commedie sono esaurite, continuano a farsi in maniera decalcomanica, io ho decalcomaniaca, che dir si voglia. Ritengo che ci sia bisogno di un'inversione totalmente di rotta, è un, sì, duopolio, sì. La Medusa però si sta facendo fagocitare da Mediaset, qui le lotte di potere le conosciamo un po' tutti, le sapete. Rai Cinema rimane lì, poi abbiamo Cattrai e Fandango, poi altri produttori, insomma la situazione è veramente ingarbugliata. Ritengo che in ogni caso, almeno per quanto riguarda l'Italia, botteghino in genere, Italia, cinema italiano, tutto quello che accade è pur sempre un mezzo miracolo, perché con tutte le premesse politiche, economiche, finanziarie, umane anche, di quelli che vediamo in giro, francamente se escono 20 film italiani più che decenti all'anno vuol dire che è proprio un miracolo. In realtà però comunque gli incassi stanno calando e qui veramente non si capisce se è solo la videopirateria, se è tutto internet, se costano troppo. Se costano troppo questi biglietti del cinema, più i popcorn, più il parcheggio, ma francamente non lo so. In realtà volevo dire per il cinema italiano, però buttare lì 5 titoli che tu non mi hai chiesto, ma te li dico lo stesso. Ok. La Ba. Lo butto, La Ba, che viene da Venezia 2011, La Ba, opera prima. Sì. Assolutamente importante. E a quello fa da pandan, La Ba fa L'Intervallo, siamo da in quei territori. L'Intervallo lo ha citato anche Fabio, vedi? Ecco. Intervallo, un gran film di un grande regista che a 53 anni si mette a fare un film di cosiddetta finzione, ma in realtà grande documentarista, Leonardo Di Costanzo, eccetera. E La Ba, Guido Lombardi. Sono entrambi napoletani? È un caso? No, secondo me no. Poi approviamo incondizionatamente, perché no, i Re Bibbia, la scuola di teatro, la scuola di cinema, L'occhio dei Taviani, La loro discrezione, è un film che secondo me sì, non è stato capito fuori, ma ha vinto l'Orso d'Oro, è stato capito abbastanza e credo che abbia nella sintesi e in una certa originalità e anche trucida, se vogliamo, e di classe nello stesso tempo, la sua cifra è migliore. Senti Maurizio, scusa, ma non è stato capito fuori, però mi sembra che abbia avuto notevoli riconoscimenti all'estero. No, sì, parlavo della, scusami, hai ragione, parlavo Golden Globe, Golden Globe e Oscar, ma ovviamente io mi aspettavo che entrasse nei 9 e non entrasse nei 5, non è entrato neanche nei 9, ma questa è un'annata pazzesca di film stranieri, io un po' ne ho visti, ne abbiamo visti un po' tutti, e, insomma, vabbè, andiamo avanti, ma non è quello il punto è che potrei finire segnalando il giovane Bertolucci, che è tornato molto giovane con Io e Te. Io e Te. Davvero. È il sempre più giovane barricadero e, come dire, mondialmente meridionale Gianni Amelio col Primo Uomo, perché quello è un film che secondo me ha 5-6 momenti di grandissimo cinema. e poi il resto magari un po' meno, però insomma il film c'è e merita attenzione. Quindi sono questa cinquina italiana che buttavo lì, fra vecchie glorie, vecchi cariatidi nel senso migliore del termine, Amelio Bertolucci e i Taviani, e Di Costanzo e Guido Lombardi, che insomma evidentemente più giovani. Credo che sia una bella eventuale cinquina di film usciti nel 2012. Sì, anche perché molti sono piaciuti anche agli altri, perché io e te e Gianni Amelio li ha citati anche Nicola Falcinella. Bene. E io e te anche Giovanni. Beh, sì, no, guarda, in realtà Bertolucci è più per quello che è riuscito a fare con poco e con la grande sua esperienza e le sue enormi difficoltà, e più perché prosegue il discorso iniziato con film che hanno parlato dei ragazzi, con The Dreamers è proseguito ancora, diciamo adesso con Io e Te ha toccato delle corde molto interessanti, ha trovato due non attori che lo hanno seguito perfettamente. Io credo che il carisma di Bernardo Bertolucci, superati certi momentacci di salute degli anni, inizio anni 2000, insomma, sia qualcosa su cui ancora poter sperare, insomma, merita un grande applauso Bernardo Bertolucci. Bene. Maurizio, ti ringrazio, sei stato come al solito a tempo di rap, sei riuscito a dire tante cose. Più o meno ne ho dette. Quindi la prossima volta che magari mi ci chiamerai parleremo di documentari all'inizio dell'anno, va? Ok, quando vuoi, verso metà gennaio faremo un consuntivo e se vorrai e ti dirò le novità che stanno per arrivare, non che io sia solo io a saperle, ma magari anche novità insomma per poter vedere i documentari italiani meglio in Italia e non solo a Roma. Ok, grazie. Allora un abbraccio, a presto. Ciao Maurizio. Auguri a tutti. Auguri. Ciao. Maurizio Di Rienzo. E come annunciato poco fa abbiamo Paolo Mereghetti anche quest'anno. Pronto, ci sei? Pronto, ci sono. Eccoti, ben ritrovato. Grazie. Come va? Abbastanza bene, diciamo. Il cinema va male, ma pazienza. Pazienza. Dal peggio cercheremo di risalire. Allora, tu sei autore del famoso dizionario, che è un punto di riferimento un po' per tutti, però scrivi anche per quotidiani. Scrivo sul Corriere della Sera. Sì. Allora Paolo, stiamo come ogni anno affrontando questa cinquina rispetto ai film usciti nelle sale italiane, poi se ti va anche qualche riferimento agli italiani se non sono inclusi nella cinquina o documentari, insomma. Io direi che possiamo andare tranquillamente, poi ti dirò anche magari se le tue indicazioni coincidono con quelle degli altri. Allora, nella mia cinquina metto probabilmente al primo posto, anche se poi è sempre un po' complicato, La guerra è dichiarata della Donzelli. Bene, questo bene, film straordinario bene. Sulla sua esperienza con il figlio che rischiava di morire per un tumore. Sì. E al secondo posto metterei Ugo Cabré di Scorsese, mi ha commosso. Sì. Al terzo un italiano, L'intervallo di Di Costanzo, opera prima presentata a Venezia, ahimè, senza grandissimo eco perché era nella sezione collaterale, uscita malamente nei cinema, ma una delle cose più belle viste sicuramente nell'anno e uno degli esordi più fulgoranti del cinema italiano e secondo me da recuperare. Al quarto posto metto quello che probabilmente avranno votato tutti, cioè Amour di Haneke, sì, che forse c'è ancora e si può recuperare in qualche modo. E al quinto posto vorrei fare un ex aequo, se fosse possibile. Ma come no, certo. E cioè Sister di Ursula Meyer, sì, e Reality di Matteo Garrone. Ok. Mi sembra, come dire, che se lo meriti. Bene. Allora ti dico subito per esempio che La guerra è dichiarata, è stato citato anche da Maurizio Di Rienzo e da me. Ugo Cabré da più persone, da Maurizio Di Rienzo, da Giovanni Spagnoletti e da Nicola Falcinella. L'intervallo da Maurizio Di Rienzo e Fabio Ferzetti, Amour da Maurizio Di Rienzo, Giovanni Spagnoletti e Fabio Ferzetti, e Reality anche aveva avuto qualche altra menzione, se non sbaglio, Nicola Falcinella, sì, eccolo qua. Quindi ti trovi in compagnia. In compagnia, non sono solo. Sister, invece, sei stato il primo a indicarlo. Succede. Senti, quindi hai indicato anche in tutto questo un titolo italiano. Di un autore che viene dal documentario, un intervallo insomma che è stato citato insomma da più persone. Paolo, a questo punto chiedo anche a te, dicevi anche all'inizio dell'anno del cinema che è in crisi, un bilancio più complessivo, più generale su quest'anno cinematografico, cosa ci dici? I dati sono abbastanza negativi, adesso non so come andrà a finire, ma mi sembra che saranno un meno 10% rispetto all'anno scorso, che già non era un bell'anno. La crisi si è fatta sentire, non soltanto diciamo le ispirazioni dei registi, ma proprio la crisi economica ha fatto sentire le sue conseguenze. Mi dispiace che un certo buon cinema d'autore sia poi quello che in questa situazione faccia ancora più fatica, nel senso che non penso soltanto ai due film che ho citato, ma non so, a Io e te di Bertolucci, a Bella addormentata di Bellocchio, che sono tutti film degnissimi, hanno stentato anche loro. Sì. O comunque non hanno ottenuto il successo che speravano, probabilmente perché il mercato nei momenti di crisi tende a radicalizzarsi, esercenti e anche pubblico e distributori si concentrano su pochi titoli forti o comunque presunti tali, e gli altri non li proteggono, non li difendono, appena incassano un po' meno li smontano e cose di questo genere. Se poi aggiungiamo che in generale diciamo le piccole monosale di città o comunque le bisale, che sono quelle che di solito difendono un certo cinema di qualità, sono quelle che rischiano addirittura la chiusura perché sopravvivono o hanno più facilità a sopravvivere i grandi multiplex, dove è più facile trovare i due soliti idioti che l'intervallo, tanto per fare degli esempi, sì. Ecco che allora la situazione è abbastanza catastrofica. Però come sempre, come dire, quando le cose vanno male forse si riescono a trovare quei colpi di reni e quelle idee nuove che permettono di risollevarsi, o comunque questo è l'augurio naturalmente. Sì, sì, sì. Tra i motivi della crisi un po' individuati c'era sia le uscite caotiche, ma anche un'iperproduzione, escono veramente tante cose in maniera confusa, e poi comunque i costi dei biglietti, se pensiamo al 3D ad esempio. Lo so, diciamo che il cinema, se poi parli con un esercente, ti dice ma no, come, siamo fermi da 10 anni, 15 anni, non so bene da quanto, sarà anche vero, però nel momento in cui uno fa i conti in tasca, se deve andare da solo è un conto, ma se porta due figli, la moglie, la fidanzata o il fratello, poi i conti salgono immediatamente, sì, e questo del biglietto è un problema che secondo me non va sottovalutato. Difficile che venga abbassato, ma che però si pensi a dei programmi a prezzi ridotti, magari recuperando film visti o non visti, cioè visti male, così potrebbe essere un'idea. E l'altra cosa, tu dicevi una produzione pletorica con tante produzioni, sì. È vero, qualche volta ti viene il dubbio che certi film non ne sentiamo una necessità assoluta, però è anche vero che la stagione italiana, ahimè, finisce a maggio e riprende a metà maggio e riprende all'ultima settimana di agosto, e in mezzo ci sono almeno 3 mesi che ovunque, dall'America alla Francia alla Spagna, che ha la nostra stessa temperatura, i nostri stessi caldi estivi, alla Germania, all'Inghilterra, in tutti i paesi del mondo sono 3 mesi dove escono dei grandi film, e noi invece no. E questa cosa, come dire, poi alla fine tutti i film si fanno guerra tra di loro periodo. E i piccoli vengono schiacciati poi durante le uscite massive. Ecco. Bene Paolo, allora io ti ringrazio, spero di vederti a qualche festival prossimamente. E... Ma prima di Berlino non mi muovo, ci sono molto. Benissimo, allora a questo punto ci risentiamo per prossime novità, un abbraccio, stammi bene. Auguri a tutti voi. Auguri, buon anno, ciao. Paolo Mereghetti. Avremmo dovuto avere con noi anche Federico Pontigia, al momento è irreperibile, quindi a questo punto proveremo a slittarlo alla settimana prossima, si è aggiunto anche Valerio San Marco e avremo anche diversi altri ospiti, quindi una puntata piena, quella d'inizio anno, giovedì 3 gennaio, avremo anche a questo punto, li cito anche Steve Della Casa, Giorgio Cosetti, Emanuela Martini, Valentina Neri, Anna Maria Pasetti, Mario Sesti e Roberto Silvestri, e qui un puntatone con molti ospiti, e a questo punto ci facciamo gli auguri per quanto riguarda il 2013. Per quanto riguarda Visionari invece l'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15, e per qualsiasi informazione vi rimando al sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, troverete tutte le informazioni. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.